Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, Brexit e architetti. Che binomio quello che vi presentiamo oggi. Prosegue il nostro viaggio nella Gran Bretagna del post-Brexit, settore dopo settore. È ancora un paese in grado di attrarre i migliori talenti, ci chiediamo? Beh, proveremo a darvi qualche risposta, anche con l'aiuto di un gruppo di architetti italiani emigrati oltre Manica. E come ogni primo sabato del mese, non perdetevi le nostre rubriche sui controesodati, che da gennaio, vi anticipiamo, avrà uno spazio ancora maggiore, e quella sulle opportunità professionali in Cina. Oggi consigli molto pratici in arrivo per chi punta a un lavoro in Estremo Oriente. Giovani talenti. La frase della settimana è copyright del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ogni settore del nostro paese è chiamato a essere fonte di ispirazione e avvicinamento alla cultura italiana. Non possono mancare in questa direzione iniziative tese all'attrazione di talenti in Italia, insieme a quelle dirette al rientro dei talenti italiani che hanno visto crescere le loro competenze all'estero. Così Mattarella. L'Italia è uno dei paesi che potrebbe maggiormente beneficiare della riduzione del numero di giovani 20-24 anni inattivi. Se in paesi come Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia deriverebbe uno slancio economico pari al 2-3% del PIL, in Italia, Turchia, Spagna e Grecia la spinta addizionale sarebbe addirittura del 7-9%. E quanto emerge dall'ultima edizione dello studio Young Workers Index elaborato da PwC. Già, se solo riuscissimo a dare più opportunità ai nostri giovani. Se un ragazzo appena finito il liceo deve iscriversi ad architettura, lo deve già fare con la coscienza che sarà disoccupato, che non troverà lavoro. Fabio Ferrian, 36 anni, un architetto al lavoro in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Il governo ha approvato un decreto che semplifica l'attività degli enti pubblici di ricerca. Meno burocrazia e più autonomia gestionale, assunzioni più libere e rientro dei cervelli. Per assumere ricercatori e tecnologi italiani e stranieri, soprattutto giovani, gli enti non dovranno più attendere l'autorizzazione del ministero competente. Questo per favorire mobilità dei ricercatori, portabilità dei progetti di ricerca e rientro dei cervelli. Torna la nostra rubrica Controesodati. Vi raccontiamo oggi la storia di Giacomo Giovannini, che dopo una carriera all'estero nel settore della cooperazione internazionale è tornato in Italia con un proprio progetto. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione Italents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo. Per info italents.org. Ascoltiamo ora la storia di Giacomo, uno dei pochi, va osservato, che ci racconta finalmente un'Italia positiva all'atto del rientro. Un piccolo segnale incoraggiante. La prima esperienza l'ho fatta in Venezuela, in Caracas, con l'ambasciata. Poi ho iniziato con il lavoro più di terreno, quindi sul field, a contatto con le persone, nei Caraibi, Saint Vincent e Grenadines. E dopodiché mi sono spostato in Africa, in Mozambico, Eritrea, dove sono rimasto 3 anni, in Marocco, in Tanzania e nella striscia di Gaza. Quindi un percorso che mi ha consentito di toccare 12 paesi in totale in 10 anni. E dopo 10 anni hai deciso a un certo punto di tornare a lavorare in Italia. Perché? Perché da una parte, diciamo, le condizioni anche personali, diciamo così, uno crescendo, trovando una compagna, la volontà di voler mettere un po' più le radici e aver dato abbastanza, sentirsi diciamo così, di voler tornare, di poter creare una famiglia autonoma, è logico che toccando così tanti paesi difficili in così poco tempo rendeva la cosa quasi impossibile. Nello stesso momento la creazione di possibilità che vedevo generarsi in Italia e nello stesso momento la sfida anche raccolta dagli amici, se vogliamo, perché dicevano: ma cosa sai fare in Africa se qua c'è tanto bisogno, perché non torni e vieni a darci una mano qua? Sei tornato con un progetto, è corretto? Esatto, sono tornato riaggiornando le mie competenze, le mie capacità, mettendole tutta l'esperienza internazionale, focalizzandolo sulla costruzione di, ero molto interessato all'impresa sociale, quindi all'innovazione sociale, ai incubatori che sono frutto anche di investimenti importanti. Quindi ho fatto un master alla SLA Bocconi, ho investito sull'educazione, sono preso un anno sabbatico. Nel frattempo ho fatto delle consulenze, quindi poter mantenermi mentre studiavo è stato un altro passaggio importante della mia vita. È appena finita l'università, quindi con questo anno di riaggiornamento di competenze ho trovato il lavoro ideale, diciamo così. Adesso attualmente sto lavorando per una organizzazione di origine americana che lavora in 100 22 paesi al mondo e quindi anche in Italia, si chiama Junior Achievement e ci occupiamo di dare educazione imprenditoriale ai ragazzi. Mi pare di capire che hai trovato un paese più dinamico rispetto a quando te n'eri andato. È stato più in generale, anche dal punto di vista della vita, un ritorno stimolante? Assolutamente sì. Perché ci sono, ecco, al netto del NIT, se vogliamo, al netto delle persone che sono in difficoltà, perché ecco, è un paese sempre, diciamo così, che si era inginocchiato perlomeno, però vedo tantissime opportunità, sicuramente più dinamico, sicuramente tanti menti al lavoro che stanno cercando di dare una svolta. E vi annunciamo che da gennaio Controesodati diverrà parte integrante di Giovani Talenti per dare sempre più spazio alle storie di chi sceglie di tornare. Maggiori informazioni a breve. Nuova edizione di MeTalents, summit dei talenti italiani all'estero, che quest'anno farà tappa a Bruxelles. Appuntamento venerdì 9 dicembre allo Io Sono Wine Bar della capitale belga dalle 17:15. Tutte le informazioni sul sito metalents.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nella patria della Brexit. Ci sarà lavoro, ci saranno opportunità dopo la futura uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Nome: Fabio. Cognome: Ferrian. Età: 36 anni. Città di origine: provincia di Padova. Studi: architettura. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Londra, Inghilterra. Perché? Mancanza di lavoro in Italia. Quale lavoro svolgi attualmente? Architetto. Dove? In Central London. Tornerai? Non so. Sono Fabio, vi seguo da 6 anni. Ascoltando Giovani Talenti ho preso il coraggio di emigrare a Londra, come tanti, da architetto. Se posso dare un contributo, ben volentieri. Così, Fabio, ti presentavi 3 mesi fa a Giovani Talenti @radio24.it. C'è una domanda che mi viene spontaneo farti: quanto gli esempi di altri giovani che prima di te hanno fatto le valigie si sono trasformati in forza propulsiva al solo ascoltarli per radio? È stata sicuramente una fonte di ispirazione. Ricordo, seguo la trasmissione sin dal 2008-2009 e al termine di ogni puntata andavo tramite i social network, Skype, alla ricerca di queste storie, dei protagonisti di queste storie, tentavo di contattarli via Facebook, Skype, LinkedIn. Alcuni di loro mi risposero, altri meno. Alla fine presi le mie cose, impacchettai il tutto in una valigia e partii. È stato utile parlare con loro, perché tu hai fatto una cosa molto intelligente. Sì, assolutamente è stato utilissimo. Ho selezionato le storie che più mi erano affini, quelle più nell'ambito dell'architettura, del design e della moda. Chiaramente alcuni erano più disponibili, altri lo erano meno. E ora la tua storia: studi all'Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Da cosa dipesa la tua scelta di studi? Io provengo da un diploma di geometra, ho finito nel 99, iniziai a lavorare come geometra negli studi di architettura e mi resi conto che con il solo diploma non è che avevo molte scelte. Da lì a 23 anni decisi di iscrivermi in facoltà, ho fatto tutto il mio percorso di studi da studente lavoratore, quindi gran sacrificio. Mi ritrovai dopo circa 6-7 anni con una laurea in mano, ma con le stesse prospettive di cui avevo alla... Ecco, ci arriviamo, però prima una parentesi: voto a livello di istruzione in Italia, soprattutto in ottica lavorativa, da 1 a 10? Per quanto mi riguarda Venezia ottimo, almeno ai miei tempi. Tu un paio di esperienze di lavoro qui le fai, nella lettera che ci hai inviato parli di anni di sacrifici e sfruttamento gratuito in Italia. Come definiresti allora l'ambiente di lavoro della penisola? Non c'è proprio speranza per un giovane neolaureato? Quanto mi riguarda, il mio punto di vista è, al momento oggi, se un ragazzo appena finito il liceo deve iscriversi ad architettura, lo deve già fare con la coscienza che sarà disoccupato, che non troverà lavoro. Questo è quanto penso. Non incoraggi certamente. E qual è la molla, Fabio, che ti ha fatto decidere definitivamente per il salto oltremanica? Avevo appena conseguito la laurea, come ripeto, mi aspettavo qualche opportunità in più, le cose non avvennero, per cui decisi di emigrare. Non ne potevo più, ero stanco delle solite cose e quindi era giusto il tempo di cambiare. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Fabio Ferrian, 36enne architetto in Gran Bretagna. Fabio abbandona l'Italia sconfortato dalle improbabili opportunità lavorative e decide di puntare tutto oltre manica. Nessuna via di mezzo, prendere o lasciare. L'inizio in Gran Bretagna è tra mille difficoltà. Ora però ce l'ha fatta e avverte i giovani connazionali che intendono seguire il suo esempio. Fate molta attenzione se intendete scegliere Londra per il vostro espatrio. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Partì interpretando la solita recita dell'architetto depresso, incompreso, triste, sfruttato e le solite cose che ci portano a pensare di essere gli unici ad avere la brillante idea di emigrare nella capitale del Regno Unito, scrivi, senza conoscere tra l'altro una parola di inglese. Se è andato, è stata molto dura all'inizio, vero Fabio? Sì, è stato molto dura, soprattutto ad essere onesti pensavo di conoscere un po' di inglese, ma ricordo benissimo appena atterrai in aeroporto andrai per comprare un pacchetto di gomme e non riuscivo neanche a chiedere come pagare. Quindi insomma, non è stato un atterraggio semplice. Il tuo primo lavoro è anche lontano dalla tua formazione, per trovarlo ti basta un corso di lingua, diventi commesso in un negozio di articoli sportivi. Da subito rimasi però colpito dalla realtà lavorativa britannica, dici. E cosa ti sorprese soprattutto in fatto di meritocrazia? Ricordo come all'inizio trovai il mio manager, il ragazzo che mi assunse, era 10 anni più giovane di me e da lì anche gli altri manager caporeparto. Una cosa che non mi tornava in quanto io ero praticamente il più vecchio del negozio, 30 anni, e mi ritrovavo tutti questi ragazzetti intorno. Beh, chiaro. Invii 700 candidature in 9 mesi per trovare un'opportunità in uno studio di architettura, non molli davvero, e ti chiedo, nel frattempo avevi anche pensato di tornare in Italia? Mi stavo continuando a mettere alla prova, era un work in progress, nel senso, chiaro. All'inizio mi ero dato un 3 mesi, poi 3 mesi sono diventati 6, da lì un anno. E poi non volevi tornare senza nulla in mano, insomma avevi fatto una scommessa e la volevi giustamente vincere. Ce la fai perché ottieni uno stage in uno studio di architettura per 3 mesi. Com'è stato l'impatto con la realtà lavorativa britannica nel tuo settore? Sicuramente positivo. Lo stage, o come la chiamano qui internship, non era pagata, era full time, per cui dovevo andare a lavorare anche il weekend in negozio per pagarmi le spese, ma assolutamente ero all'altezza in quanto riuscivo a compiere a dovere le mie mansioni. Chiaramente avevo dei limiti con la lingua. Per tenerti o stage arrivi a lavorare gratis nello studio di architettura in settimana e in negozio come commesso nel weekend, stabilendo un personale record di 82 ore di lavoro settimanali, 12 al giorno. Alla fine arriva anche il contratto d'architetto. Brevemente, come si evolve la tua carriera negli anni successivi e cosa sei ora, lavorativamente parlando? Sì, non appena ottenne il contratto mi licenziai dal negozio sportivo. Lavorai a tempo pieno nello studio di architettura. Come prima esperienza dovevo farla maturare almeno 1 anno e mezzo, questo per poter poi essere più appetibile a livello del mercato qui inglese. Dopo circa 2 anni, quando decisi era il tempo di guardarmi intorno, ricevetti un'offerta di lavoro da Dubai. Ad occhi chiusi decisi di andare a Dubai, pensavo l'aspetto economico ma ne valesse la pena. Una volta arrivato a Dubai mi resi conto non era assolutamente semplice, soprattutto per il clima, per la cultura. Poi sei tornato in Gran Bretagna? Sono tornato subito dopo in Gran Bretagna, dopo qualche mese, e ritrovai subito lavoro nel giro di qualche giorno, e da allora sono nello stesso studio. Le cose a Londra stanno cambiando, Brexit o non Brexit, avvisi gli aspiranti emigranti. Perché sconsigli di andare a cercare lavoro nella capitale britannica oggi? Sin dal giorno seguente il verdetto del referendum, le cose in giro, in città, stavano cambiando. C'erano episodi spiacevoli anche di razzismo, gli stessi colleghi, mi sentivo un po' a disagio con certi colleghi. Ma per gli architetti è ancora più difficile, secondo te, venire a lavorare adesso? Sì, lo trovo difficile, in quanto potrebbero esserci delle ripercussioni sul fatto che magari posso servire un visto, un permesso per lavorare. Tra l'altro è interessante perché tu hai calcolato anche quanto costa mediamente espatriare a Londra. Parliamo di Londra, non in generale chiaramente, perché è una città molto cara. Quanto costa solo per cominciare? Non appena si atterra, il primo giorno in cui ci si sveglia a Londra probabilmente sono andati spesi circa 2.500 sterline. No? Sono 2.700, cioè, il cambio è un po' diverso, però saranno sui 2.700, quasi 3.000 euro. Bisogna anche mettere questo in conto. La nostra domanda di rito, Fabio, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. La vedo molto male, soprattutto nell'ambito del nostro settore, dell'architettura, delle costruzioni, la vedo molto male, non c'è assolutamente competenza e tutela degli ordini professionali. Come ripartire? Soprattutto bisognerebbe attirare grossi investitori, ma bisognerebbe un attimo rivedere tutto il sistema Italia. Ci raggiunge ora in linea Elena Re del gruppo Architetti Italiani in UK. Buon pomeriggio, Elena. Ciao, ciao a tutti. Elena, anche tu come Fabio sconsigli di tentare la sorte a Londra se si vuole migrare, puntando invece magari su sentieri e città meno battuti? Sì, confermo che Londra ormai è satura di architetti europei che cercano lavoro, soprattutto è satura di coloro che arrivano senza un inglese buono, che non conoscono il mondo del e che non hanno una vera esperienza professionale. Poi il costo della vita qui a Londra è talmente alto che molti rimangono incastrati nel primo lavoro a paga minima per pagare le bollette, l'affitto, eccetera, e non riescono ad uscirne. Quindi sì, cioè, se volete partire, partite, ma non consideratevi solo Londra. Esatto, Manchester o comunque altre città. Sì, ce ne sono tanti, Manchester, Birmingham. Tu in Italia hai lavorato 5 anni, ero parte del popolo delle partite IVA che scappa con le valigie di cartone e che pensa che la generazione 1000 euro sia benestante, ricordi Amara. A 3 anni di distanza dal tuo espatrio, ti puoi dire soddisfatta? Sì, io posso dire che per me sono passata dalle stalle alle stelle, è l'espressione che meglio si addice. Io posso dire che ho svoltato, cioè in 3 anni qua sono passata dai 500 euro netti in Italia, ore infinite in ufficio, weekend senza futuro, a un contratto fisso, molto ben pagato, con meno di 8 ore al giorno. Ovviamente quindi, niente mi è stato regalato, quindi fa frutto di lavoro, studi, lingua, eccetera, però assolutamente non tornerei mai indietro. Con Fabio gestisci la community degli architetti italiani in UK, quanti siete? Fabio collabora con il gruppo Architetti Italiani a Londra che ha circa 200 iscritti, poi c'è anche una community, un blog adesso che ha circa 2000 follower, un pochino più di 2000 follower stamattina 2017 e devo dire che moltissimi però sono italiani che cercano consigli per la cosiddetta fuga dei cervelli, cioè come fare, dove vado, quando vado. Se dovessi riassumere il principale consiglio per un architetto che vuole espatriare in Gran Bretagna, uno solo? L'architetto in Italia è multiforme, fa progettista, restauratore, DL, CFE, certificatore, qui no, ognuno ha un'attività. Quindi specializzatevi. Sì, nel senso, capite qual è il filo rosso della vostra carriera, capite qual è, cercate di dotarvi di attestati, di esperienza su quello, focalizzate il vostro CV e venite qui. Non vi fossilizzate semplicemente a lavorare negli studi, perché a volte se non avete una carriera come progettista alle spalle fate fatica ad entrare, quindi guardate bene e cercate. Per chiudere, Elena, che aria si respira? Lo chiedo anche a te dopo la Brexit. L'aria che si respira è di sicuro contraddittoria e confusa. Per ora niente è cambiato, però alla fine, perché finché non parte l'articolo 50 non è cambiato, però è cambiato tanto comunque, perché cercano di non assumere più persone che arrivano dall'Europa, perché comunque non sanno come potranno gestirle in futuro. Se non parli bene l'inglese, comunque fai fatica a entrare nel mondo del lavoro. Se vieni da fuori e non sei inserito qui nel loro mondo del lavoro, non conosci come funzionano le sfaccettature, vieni comunque scartato a priori. Quindi è difficile l'inserimento nel mondo del lavoro adesso, soprattutto perché arrivo da fuori, molto più di prima. Grazie ad Elena Re del gruppo Architetti Italiani in UK e domanda di rito per Fabio Ferian. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sicuramente guardarsi intorno, il mondo è grande, Londra e UK vanno principalmente di moda, i soldi da mettere sul piatto per un espatrio sono sempre gli stessi, tutto sta a farli fruttare nella miglior maniera. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Torna all'appuntamento con Lido Gramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia affronta oggi il tema della ricerca di lavoro in Estremo Oriente dal punto di vista delle risorse umane. Puntata oggi dal taglio molto molto pratico, sentiamo. Quale consiglio ai giovani che vogliono venire a lavorare in Cina? In questa puntata la domanda l'ho rivolta a Ilaria Massa, che è la responsabile per le operazioni in Cina di Consea, una società italiana di ricerca del personale che dal 2005 ha una sede anche a Shanghai. No alla Cina come mercato di primo sbocco subito dopo la laurea, e dice Ilaria Massa, anche in linea con quello che abbiamo anche ripetuto nelle precedenti puntate. Ai giovani che vogliono venire a lavorare in Cina si richiede una forte competenza tecnica, qualche anno di esperienza lavorativa in Italia o all'estero, possibilmente in un paese anglofono, una discreta conoscenza della lingua cinese. Ci sono ancora diverse ricerche di personale specializzato e manageriale su tutta l'Asia, inclusa la Cina, ma le condizioni contrattuali non sono più quelle di 10 anni fa. Nota positiva è che da circa un anno nelle aziende italiane in Cina c'è un ritorno a un presidio italiano sulle posizioni chiave, general manager o direttore finanziario in primo luogo. La conoscenza del cinese è sempre più richiesta, in alcuni casi è addirittura indispensabile, molto utile nel settore vendite e nel food and beverage, dove il personale parla pochissimo l'inglese e spesso ci si ritrova a lavorare in città di seconda o terza fascia, dove anche la maggioranza dei clienti è cinese. La conoscenza della lingua cinese aiuta molto, ma chiaramente non è indispensabile, soprattutto se parliamo di top manager. È comunque consigliato, questo è il consiglio che io do sempre ai giovani, giovanissimi, di fare un primo approccio alla Cina di tipo universitario e con delle scuole di lingue, perché al momento è probabilmente lo spazio più semplice di inserimento per i giovani se si vuole poi in un secondo momento venire a lavorare in Cina. Per una panoramica sui trend del mercato del lavoro in Cina potete leggere il rapporto di Consea per Fondazione Italia Cina dal titolo La Cina nel 2016, scenari e prospettive per le imprese, che trovate sul sito conseaexecutivesearch.com, dove c'è anche una sezione dedicata alle offerte di lavoro in Cina. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di frontiera all'interno del portale China Files. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche, perché no, denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi, aspettiamo le vostre storie, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.